24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quante lingue parla lei? Ma io conosco il tedesco e lo spagnolo, un po' l'inglese e un po' il francese e poi l'abruzzese. L'italiano no. L'italiano poco. L'italiano poco. Ma chi è, direte voi, ma chi è il mitico Antonio Razzi? Come no, Antonio Razzi, senatore o deputato della Repubblica Italiana, che dice conosco un po' di lingue, francese, tedesco, lo spagnolo, ma l'italiano... L'italiano assolutamente no, o così diciamo si sta applicando, insomma cosa volete, ha vissuto 40 anni in Svizzera e quindi dategli tempo, sta facendo una scuola un po' ben pagata al Senato e va bene così. Allora, buongiorno, questo è 24 mattino, sono le 6:30 minuti, sono tornate le sigle qui così pare, allora io voglio salutare il nostro Alessandro Longoni che ci sta accompagnando in questo luglio. Sì, io ce l'ho con Trafile 3. Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sono tornati. Il mondo va così. Vabbè. Sono tornate le sigle, appunto. Sono proprio tornate tutte, tutte. Non è che qualcuna si è persa, Carmelo, ti è sfuggita. No, proprio tutte sono tornate. Come si fa a iniziare la giornata senza il grande Vincino? Buongiorno, sono tornate tutte le sigle sono tornate, non è che una proprio, no, anche quella del coglione. E vabbè, d'altronde è così, come per fare il verso al nostro ascoltatore. Saluto anche un grande ritorno a Silvia Brasca del TG della 7, buongiorno, ben svegliata. Buongiorno. Ecco, oggi c'è Vincino, ti affida Vincino, quindi sono tutti... Benissimo. Sono tutti problemi tuoi, diciamo. Come devi dire subito Vincino qualcosa a Mentana, così poi Silvia Brasca glielo riferisce. No, Mentana, come dire. Pronto? Sì. No, ieri sera non l'ho visto. Vabbè, Silvia, stai tranquilla. Puoi dormire tranquilla. Niente banalità ieri. Niente. Eccolo lì! Il re della banalità del PC Medio. No, lui è proprio... Ma io non volevo mica aizzare subito Vincino. Vabbè. Fermi tutti, no? Se no, apriamo il Parlamento. Parlamento dove si lavora, si lavora. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, eccola, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Che tra l'altro l'ho vista un paio di foto in forma, mi sembra, nonostante... Silvia, tu l'hai vista in un paio di foto che girano online nonostante la condanna a 5 anni, Nicole Minetti? Ma sai che no, queste no. No, come è no? Sono, sì, potrei dire sì, ma non le ho viste. Come non sono le prime? Mi devi dire dove, perché... Ma come? Allora... Dai, su tutti i siti sono le prime cose che si cliccano. Mi è scappato. Quali siti frequenti? Ma no, siti di informazione, l'ho visto, che ne so, su Libero, queste cose qui. Sono i primi click che si fanno, dai, lo so, Nicole Minetti in gran forma al mare. Ecco, e tu clicchi e guardi, ovviamente. Ho guardato i sandali delle dive, ma non... Ecco, vedi... Sandra deve dire, non so, tu Vincino cosa hai cliccato? L'ospedale del Royal Baby magari? Quello stiamo aspettando il nome, assolutamente. Sì. No, sì, infatti, ma questa cosa perché non si sa il nome? Cioè, perché non si sa ancora il nome? Pensavo sarebbe una cosa carina lo chiamassero Silvio, il primo Silvio re d'Inghilterra. Ma così sì, per riavvicinare, Silvio, e farebbero un piacere, poi quel poveretto là che per ora è distrutto, aspetta questo giorno 30, proprio mamma mia, Silvio. Il giorno della castrazione totale. No. Ma è una cosa, guarda, che tutti qua, gli italiani che godono in questa sofferenza... non lo so, vabbè, siamo diventati cattivi. Silvio, in modo, Silvio potrebbe essere un buon nome. Silvio, re, King Silvio, King Silvio of England. Potrebbe essere. Vabbè, allora noi iniziamo da, appunto, il Parlamento. Ragazzi, oggi ci sono dei titoli sui giornali. Oggi ho visto gente che portava la prima pagina di Repubblica sbandando come ubriaca, cioè il titolo di Repubblica è il PD, no ai diktat sull'omofobia. Ma la gente cosa capisce di quello che sta succedendo in questo momento in Parlamento, in cui stanno litigando se rinviare o no una legge sull'omofobia per un ricatto politico, che non l'ho capito. Tu, Silvia Brasca, hai capito qualcosa? No, davvero, sinceramente, ho due, ci sono due o tre termini di questa legge che non ho capito. Ieri ho anche guardato, ho sentito la Carfagna, non l'ho capito. Non hai capito. Mi sono impantanata anch'io. Anche tu. No, oggi addirittura il Secolo XIX titola così a pagina 2: è stallo, PD e PDL non decidono più nulla. E perché io ho detto Vincino? Perché più? Ma quando, cosa? Mai hanno deciso? Non hanno ancora deciso niente. Perché più nulla? C'è un più di troppo. I cattolici del PD, e quello mi sfuggono gli emendamenti dei cattolici del PD. Ma poi li confondo con i 150 emendamenti della legge sul finanziamento pubblico. E quindi davvero ho fatto un po' fatica. Il blocco per la legge dell'omofobia. E ci sono, Vincino, tutte le prime quattro pagine di Repubblica di retroscena per come sbloccare questa legge. Se pare che da questa legge, che sarà una legge importante, cambi il destino di tutta l'Italia, insomma. Vincino, ma cosa sta succedendo? Tu che segui la Camera tutti i giorni, cosa succede? Devo dire che ieri non ci sono stato, per cui cosa hanno fatto non lo so. Cosa sta succedendo? Perché quella del finanziamento pubblico è terribile, guarda, perché se non la fanno minimamente decente, come dire, è veramente grave la cosa. Noi ne parleremo alle 8:15. Questa dei temi etici dei quattro cattolici mi pare una stronzata immane totale, che non gliene frega niente a nessuno, soprattutto al PDL non gliene frega niente. No, cosa vuoi che importi a quello là dei temi etici? Non lo so. Magari con un tono più sfumato, ma anch'io ho capito che c'è qualche problema. Cioè, ho capito che faccio fatica a capire. Cioè, ma manco in quegli altri, come dire, non è che tutta questa cosa qua... Cioè, facciamo questa legge la più spigliata che ci possano orientare un poco quelli là, come si chiama? No, ma la cosa che non ho capito non che è tanto la Bibbia ci possa orientare il Vangelo leggermente, mettiamo fuori legge tutti i lettori della Bibbia e del Vangelo, è un disastro per loro. No, ma la cosa che non ho capito non è tanto il perché la legge sull'omofobia sia bloccata o no, ma perché questa sia un elemento che di colpo è entrato nel linguaggio politico per dire... Tu, Silvia, l'hai capito, perché è importante, insomma, perché bloccare questa... Bisogna riparare Calderoni. Secondo me questa corsa, perché c'è ultimamente, penso, una violenza dei linguaggi, delle cose, allora si devono ricompattare su un tema etico-morale. E perché la vogliono bloccare quelli là? Ma non l'ho capito, Vai a saperlo. No, ma sono due giorni che non si parla d'altro, cioè come se i problemi dell'Italia siano questi. D'altronde, ecco, anche sull'IMU hanno fatto una cabina di regia i partiti ieri, ma non hanno deciso. Non c'è l'accordo. Allora, su questo io vorrei inserire questo discorso. Che è quello che ha detto ieri Casaleggio. Sapete che c'è un ministro, il ministro Del Rio, che ha detto: guardate che Casaleggio non ha tutti i torti, anch'io temo che la rabbia stia arrivando a dei livelli incontrollabili. Allora, Vincino, se Casaleggio lo dice... Casaleggio ha tutti i torti, guarda. Ha tutti i torti, Casaleggio tu dici. Ha totalmente tutti sì, i torti. Sì, ma qui c'è un ministro anche della Repubblica, c'è un ministro della Repubblica, Del Rio, che dice non ha tutti i torti, cioè nel senso la rabbia... sta montando. Allora, che succede qua se anche un ministro dice una cosa del genere? Si è reso conto che l'Italia è uno dei pochi paesi in cui, insomma, quelle piazze non ci sono state, insomma. Penso sia ragionevole pensarci, no, con un tasso di disoccupazione, vedendo quello che succede nel mondo. Sì. Al momento noi abbiamo dei grumi impensabili, che è quello del Notav, quello che succede nel campeggio estivo insopportabile ai Notav, e poi sembra un paese da un certo punto di vista anestetizzato. Oggi tra l'altro la base sul Corriere conta gli iscritti ai partiti che se ne sono andati. La frase Casaleggio era insomma, non sono assolutamente d'accordo, Del Rio fa il ministro. No, infatti, Vincino, qua... Minacciosa la frase di Casaleggio, il guaio della Casaleggio è che era minacciosa realmente, sia lui che Grillo, no, dice o c'è del governo a noi o ci sarà un casino in mano. No, vabbè, non l'ha detta così. Ha ragione Vincino, era quello che era anche così, quello che il senso è questo, se l'avesse detto un altro, uno della Lega o uno del... del centrodestra, quella cosa sarebbero insorti gli altri, sarebbero manifestazioni del coso centro democratico per la difesa della Costituzione. Però non è che l'ha messa così, cioè non è, ha detto temo uno shock economico, e o cambia la rappresentanza democratica, e tu dici quello che dice, o ci date il governo, tu la traduci così, o ci date il governo. Il mafioso quando minaccia che fa? La mette così? No, il mafioso dice, se senta, vedo che lei secondo me via e fa la minaccia pazzesca, minaccia, i fiori sono già pronti, i fiori sono già, è che uno che dice cazzo, poi deve pensare quello muore, viene ammazzato, i fiori sono pronti, ma il mafioso usa questo linguaggio qua. Vabbè, allora facciamolo risentire Casaleggio, secondo Vincino questo è un messaggio mafioso, quando Casaleggio dice o cambia la rappresentanza democratica, uno shock economico, oppure temo rivolte. Secondo Vincino è un messaggio, come dire, o date a noi il governo oppure sentite. Penso che il paese avrà nei prossimi mesi purtroppo uno shock economico. Questo shock economico potrebbe portare o a una ridefinizione della rappresentanza politica, cioè non quella attuale, oppure a uno spostamento dalla politica, da problemi cosiddetti politici, a problemi di carattere sociale. Certo. Disordini, rivolte. Vincino. L'inquietante era Nuzzi, però, in questa cosa qua. Uno guarda la foto, le immagini, è terribile. A me la paura maggiore me la mette Nuzzi. Ma no, fa parte del messaggio. Sì, faceva... è veramente inquietante. Fa parte del messaggio, ma che sei una loggia massonica. Cioè, oggi date il governo a noi, e quando dice purtroppo lui ride, no? Cioè, purtroppo, oggi date il governo a noi, io se no... giustamente la mia coinquilina di stamattina l'ha capito pure lei, cioè, sei l'unico, come fai? Silvia, hai capito? D'altronde un piccolo centro democratico di difesa della democrazia. Vabbè, ho capito, ma allora il ministro Del Rio però ha detto la stessa cosa. Ma quello è sindaco pure, non era sindaco, era sindaco. Si è già dimesso, che l'hanno già fatto un altro. Si è dimesso. Hai capito Silvia Brasca? Ho capito, solo io non ho capito il messaggio di Casaleggio, che devo fare? Ma poi Nuzzi gli dice anche guerra civile, cioè parole per è Nuzzi quello più terribile. Ma dai, adesso Nuzzi gli faceva le domande, aveva lì Casaleggio e Casaleggio ha detto o cambia la rappresentanza democratica, cioè, politica, o ci date il governo a noi, non quel questo è il così, messaggio. Vabbè, no, oppure cambia lui ce l'ha con i partiti, dai, fatto i partiti. Una proposta che non possiamo rifiutare praticamente. Casaleggio, va bene. Siccome non gli va più con i voti, non ce la fanno più, devono iniziare ad andare pesante. No? Poi le balle là, dice no, non abbiamo perso le cose, siamo noi che l'abbiamo voluti perdere. No? È una cosa che alle amministrative. Nessuno l'ha mai osato dire in Italia. Vabbè, comunque adesso poi dopo ci dicono, ma voi sorridete, ma non è che stiamo sorridendo, no. Come fai a non sorridere quando c'è Vincino? Il Casaleggio, quello là sono quei cani là che uno non vedono niente davanti, no? Uno dice, guardi, si sposti un poco i capelli da un lato e dall'altro, si dia una pettinata vedrà chiaro. Vedi Silvia che anche Vincino fa sto gioco di associare le persone agli animali e poi dopo si incorrono in gravissime problematiche, Vincino. Tu Silvia lo fai? Traduco il termine. tema, scusate però, della villa di Grillo a Bibbona per una sola cosa, che ha un salotto bruttissimo, più brutto anche di quello. Allora, no, introduce questo tema agli ascoltatori. Oggi Libero pubblica le foto della villa marina di Bibbona di Beppe Grillo, la mette in affitto, sai Vincino quanto viene, però è per 16 quanto? Persone, 16 persone. 14.000 euro a settimana più il 3%. Madonna, Vabbè. Due partiti ci fa con questo, guarda. Tre elezioni. 16 persone sono neanche 1.000 euro persone. A testa. E via. E per una settimana al mare, a Marina di Bibbona, 10 metri dal mare, meno di 1.000 euro Marina a settimana. Marina di Bibbona come fosse, che ha detto Taormina, non so, Saint-Tropez. No, Marina di Bibbona, come dici? No, siamo abituati meglio noi forse. Siamo abituati. Comunque 14.000 euro più, io 3, Mondello, più 3% del più bello del mondo. Mondello straordinario. Silvia, che va bene? Non ti va bene l'arredamento del... È bruttissimo. Non si capisce come Marina di Bibbona, che è un posto bellissimo, secondo me molto bella la Maremma. E no, come ci possa stare quel salotto lì? Tra l'altro quella villa mi sembra che sia... Ho capito, 10 metri dal mare. Ma poi ci dicono che massacriamo il Movimento 5 Stelle. Ma adesso uno non può, Beppe Grillo non può arredarsi il divano come il salotto come vuole. Se uno lo commenta, certo. Beppe Grillo, mentre che la mia che dimagrito, che era ingiovanito negli auguri di compleanno, io dico che c'ha una brutta casa. È dimagrito col vestito intero, quando gli levi il vestito esce fuori la pancia tutta di nuovo, cioè, perché c'ha la panciera, sembra dimagrito. C'ha no? La pancera. Allora, Grillo, alla mia età, però quando io facevo politica a 18 anni, 20 anni, conquistavo il mondo, lui vendeva yogurt, gliene fregava niente, lui toccava i culi, vendeva yogurt, ve lo do io il Brasile, ve lo do io il coso, no. Adesso siamo entrati nel Brasile. Il Brasile, che associazione! Che associazione! Non ha mai capito niente, che solo gli ultimi 5-6 anni. A proposito di Brasile, dai, rientriamo da qui dopo la... No, aspetta, rientriamo dopo il traffico, la segreteria telefonica, siamo con Vincino e Silvia Brasca del TG della 7. 24 mattino. Cerchi un'informazione fresca come una bibita. Alessandro Milan, Radio 24. Non ho neanche più l'energia per protestare, per arrabbiarmi. Provo un sentimento di paura, per un Parlamento disposto a votare qualsiasi cosa pur di salvare poltrone e potere. Sono invece super contenta per aver votato il Movimento 5 Stelle. Ma il PD dove credi di andare? Con le sue mani incartapecorite? Buongiorno Alessandro Milan, ieri ho sentito Epifani dire tagliando, pensavo dicesse tagliando la spesa pubblica eviteremo lo sfascio. E poi se la prendono, invece no, è tagliando della macchina, poi se la prendono con Renzi che parla di rottamazione. Speriamo però che non stiano rottamando l'Italia. Una buona giornata e mi auguro che vada in vacanza e poi lei torni, non è che ci abbandona, vero? Il governo deve percepire dei soldi e non sa dove prenderli. Io dico una cosa, io tutte le mattine che esco per strada trovo un ragazzino che accende il telefonino, un nero a un telefonino, che guida la macchina al telefonino. Ci sono 40 milioni di telefoni in Italia, ma perché non mettono 2 centesimi ogni acquisto di una scheda telefonica? Così li pagano tutti. Alessandro, sì, sono veramente arrabbiato e ti dico bravo perché parli chiaro e dici la verità. Io sono un vecchio pensionato di 720 euro al mese e li faccio bastare, ma quelli che prendono dai 10 ai 100.000 euro al mese, cosa gli serviranno? E continuano a stare intorno alla greppia, litigano sempre. Mio nonno e mio babbo avevano dei maiali che litigavano fra loro. Li ha chiusi nella stalla, ha messo un barattolo di zolfo acceso e quando hanno smesso di litigare li ha aperti e sono andati d'accordo per tutta la vita. eccoci qua, la soluzione, Vincino, questa è la soluzione che ci fornisce l'ascoltatore. Il maiale. Il maiale. Terribile. Baratto di zolfo, sì, infatti, molto molto dura. Poi li ha aperti, tutti i maiali aperti. Sì, sì, sì, sì. No, non si è capito come finisce là la cosa. No. Però il primo ti ha fatto i complimenti. Il primo? Ah, cioè, sì, sono così ormai distrutti. Sì. I nostri non vedono l'ora, cioè, che passano i complimenti, vedono che gli insulti non vanno bene, insomma. Comunque sì, questa è l'ultima settimana, poi andiamo in vacanza, ma poi torniamo il 2 settembre siamo qua. Tu, Silvia Brasca, vai in vacanza? Perché attenzione, ci andrò anch'io, perché è la nuova, il nuovo fronte della lotta sociale, chi va in vacanza è un nemico del popolo. Sì, perché mi sembra che Letta non fa nulla. Non fa nulla in che senso? Di vacanze? Non ho organizzato niente per le vacanze. Nel dubbio dice non faccio neanche le vacanze. Nulla, io faccio niente, neanche le vacanze, faccio zero proprio. Che dire, allora il 30 luglio forse ci sono calcoli nuovi, Vincino, la Cassazione forse deciderà a settembre, scrive il Corriere, perché i calcoli della prescrizione portano forse a settembre, non si capisce bene qua. Quindi stai a vedere che succede anche questo in autunno. Il finanziamento ai partiti forse slitta in autunno. Ci sono i 150 emendamenti. Il congresso del PD lo slittiamo tra due anni. In autunno, sì. Certo. Cioè, come quello del congresso del PD è pazzesco. Se uno pensa, no, dice, muore un papa, che cosa fanno? Cioè, no, mettono uno di transizione, Epifani, e via per un anno, due. Cioè, fuori per via, muore un segretario, ne fai un altro subito. Cioè, come fa un partito come quello che ormai è in mano tutto praticamente? No? Sì, non è che... sì. Hanno tutto dappertutto, no? È una cosa incredibile. Che poi ognuno del PD si sente ora faccio io, porto io alla conquista e acchiappo tutto il. Prende tutto il piatto. Allora, che volete dire del Brasile? Adesso anche voi, la retorica, per carità, il Papa, la borsa, ma si giudica da questi gesti il Papa? La stupenda cosa di satira politica che è quella statua del Papa di sabbia. Quella è una cosa che, cioè, come non la guardano, che è terribile, no? Ma cosa c'entra? È una, cioè, di cattiveria tutto... dei confronti sui terribili, e tutti, guarda che carini, gli hanno fatto la statua, ma gli hanno fatto la faccia di una cosa brutta, terribile. Sì, effettivamente, l'ho vista anch'io, ho fatto una statua di sabbia, non solo non ci assomiglia per niente. È venuto proprio male. Quello di Papa Wojtyła a termine. Però non ho capito, cioè, Silvia, hai capito, Vincino, di tutto quello che è il viaggio del Papa in Brasile, cosa lo colpisce la statua di sabbia? Ma io non lo so. Tutti devo dire, la folla c'era, non si sapeva, no? Che hanno trovato un coltello, una bombetta, una cosa, sì, anche questa c'era, sì, no? Sì. Cose inutili, no? Silvia dice cose della cronaca. Cose... è partito, no, questa è la cosa. Beh, lui è partito con la valigia in mano, valigia con i codici segreti, no? Ma che codici segreti? Come il presidente degli Stati Uniti d'America, c'ha quello accanto con la valigetta. Ma con che codici atomici. Segreti? Che codici? Ma che codici atomici? Le chiavi, le chiavi di San Pietro, cosa? Le chiavi? La smetti. C'ha un chiavone di San Pietro enorme là, se la porta sempre, perché pure... Silvia, fai qualcosa! Ferma questo disgraziato miscredente! C'è intorno, poveretto, tutto un aereo di lobby gay, questo qua là mezzo che cercava di sopravvivere con una mano avanti e una di dietro. finiscila. Silvia, a te colpisce questo Papa, no? Perché entriamo un po' per carità, certo, sì, perché poi se lavori con le immagini, allora è proprio vedere un Papa con questa valigetta nera, le scarpe nere, insomma, l'abito fa il monaco, poi viene da dire anche, certo che colpisce qualcosa anche nella forma, a volte poi diventa sostanza e quindi qualcosa colpisce, poi dopo dobbiamo davvero vedere, mi sembra che a differenza appunto del PD qualcosa, insomma, non mi sembra che sia uno di passaggio. No, certo. No, la notizia ieri che c'è su Repubblica, ha messo gli 007 Vaticani, stanno scandagliando…

50 emendamenti presentati, la sensazione che si voglia fare affossare oggi sui giornali, i titoli sono soldi ai partiti, Letta in trincea, nessun passo indietro, in gioco la nostra credibilità, ha detto Letta tra l'altro su questa vicenda, uno dei motivi per cui il Movimento 5 Stelle ha ottenuto più voti alle ultime elezioni. Ma i partiti tradizionali, cioè PDL, PD, SEL, Scelta Civica, per motivi diversi, ma tutti dicono no, questo finanziamento pubblico ci vuole in una qualche forma, in tutta Europa è così. Non piace per esempio l'idea di passare dall'attuale finanziamento al cosiddetto 2 per 1000, cioè il fatto che gli italiani possono destinare il 2 per 1000. Chi invece, come il Movimento 5 Stelle, dice rinunciate partiti a questo finanziamento, dovete azzerarlo, c'è stato il referendum del 93 famoso degli italiani, insomma le posizioni paiono inconciliabili e molti partiti tradizionali cercano di fare melina, diciamolo francamente. Allora, come finirà questa vicenda? Intanto sicuramente al 31 luglio arriveranno 91 milioni di euro che i partiti si dovranno spartire in virtù del finanziamento attuale e in base alle ultime elezioni. Tutti i partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, se li prenderanno. Voglio salutare il senatore del Movimento 5 Stelle, Sergio Puglia. Buongiorno e benvenuto. Salve, buongiorno. E tesoriere del Movimento 5 Stelle al Senato, così almeno ho letto sui giornali, l'hanno definita. Saluto anche il tesoriere invece di SEL, l'onorevole Sergio Boccadutri. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. Allora, intanto le chiedo questo, Boccadutri: 91 milioni arriveranno al 31 luglio. A SEL quanti ne spettano in virtù delle ultime elezioni? Lei starà facendo ovviamente i conti, immagino, no? Mardin, meno di un milione, circa 780.000 euro. Che dice, anche voi fate melina? Come lo accoglie l'invito di Letta a dire guardate che qua ci giochiamo molta credibilità, Ma io, mi sente pronto? Sì, benissimo. Sì, io melina non ne abbiamo fatto assolutamente. C'è stato un testo del governo che noi non condividiamo, l'abbiamo detto immediatamente tra l'altro, presentato il 18 giugno, quindi diciamo appena poco più di un mese fa, al quale abbiamo presentato una quindicina di emendamenti. Punto. Dopodiché la discussione la si farà in 3 giorni sugli emendamenti e il 26 daremo il mandato al relatore, tutto nei tempi previsti con concordi dei gruppi. Quindi non c'è il tentativo di, diciamo, affossare nelle sabbie mobili questo provvedimento, rinviarlo? Noi non facciamo, noi non abbiamo fatto mai l'ostruzionismo su nessun tema, cioè c'è una discussione, proponiamo le nostre cose anche con gli strumenti che sono quelli che sono, in questo caso gli emendamenti, tra l'altro ci permette, noi siamo all'opposizione di questo governo, non condividiamo l'impianto della legge, abbiamo presentato alcuni emendamenti che secondo noi correttivi, tra ne dico uno, il tetto alle donazioni da parte di un privato, così come nella legge un privato può donare anche 2 milioni di euro, noi pensiamo che ci voglia un tetto se si fa un sistema di finanziamento tutto privato, e perché non discutere di questo, no? Questo sicuramente, però tra poco magari ci spiegherà se è dell'idea insomma che la democrazia è a rischio se si tocca il finanziamento pubblico ai partiti, perché questa è una frase per esempio che i tesorieri storici, sia Bianconi del Popolo della Libertà, sia l'ex tesoriere Sposetti dei DS, hanno ripetuto, e tra l'altro anche ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio 24 nei giorni scorsi. Senatore Puglia, voi invece quanti soldi dovreste prendere in base all'ultimo voto di febbraio, al 31 luglio, e che invece non prenderete perché avete deciso di rinunciarvi? Ma in totale dovrebbero essere all'incirca 42 milioni, che poi diviso 4 sarebbero tipo 10 milioni e mezzo, quindi la prima rata dovrebbe essere questa, anche se in verità non ci siamo assolutamente fatti il problema, perché non ci abbiamo assolutamente pensato, quindi non abbiamo neanche pensato a cosa rinunciamo. Vabbè, uno dei punti insomma del programma del Movimento 5 Stelle era fin da subito, non prenderemo, rinunceremo a qualsiasi tipo di finanziamento. Che cosa, lei condivide il fatto del Premier Letta che dice è su questo, anche su questo che il Movimento 5 Stelle ha preso molti voti, perché i cittadini insomma vedono che invece dall'altra parte non si vuole prendere atto che diciamo, la maggior parte delle cittadinanza vorrebbe una cancellazione totale del finanziamento. Ma non credo che i cittadini si basino unicamente su un'unica variabile, comunque, o comunque che questa variabile sia fondamentale per poi votare un partito. No, non è certamente questo, ma più che altro è la credibilità. Ossia, quando qualsiasi persona dà un messaggio, ecco, bisogna vedere non tanto il messaggio che si dà, ma chi lo dà. Per cui certamente attualmente, se a dare il messaggio è, come dire, tra virgolette, un vecchio politico, ecco, quel messaggio perde di credibilità, perché è chi dà il messaggio che non è credibile. Però, senatore Puglia, lei che è del Movimento 5 Stelle, perché voi chiedete l'azzeramento del finanziamento pubblico? È vero, c'è stato un referendum e gli italiani si sono espressi in questo senso nel lontano 93, poi è stato, diciamo così, aggirato, diciamola bellamente. Non credete che ci debba essere una qualche forma di finanziamento della politica in molti paesi europei? È così. Allora, partiamo da un presupposto per quanto riguarda proprio il finanziamento pubblico. Per quanto riguarda il finanziamento pubblico, ecco, molto spesso si dice, come già anche lei prima ha citato, che se non c'è il finanziamento pubblico, aiuto, la democrazia è a rischio. Ecco, ovviamente questo spauracchio che buttano sempre avanti i vecchi politici dei partiti è un qualcosa che non esiste, perché da un lato noi abbiamo i cittadini che si sono espressi nel 93 e andavano rispettati e non defraudati della loro volontà attraverso una semplice locuzione cambiata da finanziamento a rimborso, che poi rimborso non è stato, perché si vanno ad avere anche più soldi di quelli, sì, che si spendono. Certo. D'altra parte, per quanto riguarda il finanziamento in sé per sé, ecco, non è giusto nel momento in cui il cittadino già si è espresso. Per quanto riguarda il fatto che la democrazia è a rischio, ecco, voglio ricordare prima a me stesso che fino ad oggi anche grossi capitali gestiscono partiti, e sappiamo benissimo, la storia ci sta insegnando, quindi non c'entra assolutamente nulla il finanziamento. E guardi, certo, che però, effettivamente però, senatore Puglia, vorrei su questo coinvolgere l'onorevole Boccadutri, e credo una delle cose che viene detta spesso, e immagino che anche lei, Boccadutri, sia d'accordo, senza una forma di finanziamento, così i ricchi possono fare politica, sappiamo subito, insomma, a chi pensiamo, se pensiamo a uno ricco in questo momento in politica. Onorevole Boccadutri, questo è un altro argomento che viene messo avanti, come dire, se non c'è una forma di finanziamento dello Stato, allora solo chi ha più soldi vince. Ma oggi siamo oltre, diciamo, questa cosa qui, nel senso che probabilmente 20 anni fa sarebbe stata esclusivamente questa. Oggi siamo oltre, perché ormai si vede anche la necessità del governo di fare una legge sulle lobby. Oggi non soltanto i ricchi, ma i portatori di interessi privati, che è un po' una cosa anche un po' diversa, che intervengono sui decisori politici. Guardate, Sinistra Ecologia e Libertà non ha preso soldi dalle grandi aziende, non li ha prese mai, e continuerà a non prenderli. Ovviamente farà molta più fatica a rappresentare gli interessi di Sella, interessi, appunto, che conosciamo quali sono, ovviamente di fretta a forze che magari piegheranno il loro programma elettorale sulla base di chi li paga. E qui non sono tanti ricchi, ovviamente, quello è semplice, uno ha un partito, Berlusconi ci mette i soldi e via, ma qui stiamo parlando di istituti finanziari, banche, interessi economici, che andranno a incidere, appunto, sui decisori politici, e questo è il punto, cioè la libertà. E allora il Parlamento sarà soltanto la somma di parlamentari pagati da questa o da quell'azienda, e quindi sarà un confronto di interessi di un certo tipo e non presenti nella società. Ma guarda che la libertà allora estrema è quella di non prendere soldi di nessun tipo, neanche dallo Stato, che poi sono soldi Beh, nostri. No, vabbè, ma lo Stato lo fa, ma quella è una garanzia di accesso, lo fa per tutti. Che c'è il problema, tant'è vero che, ad esempio, noi proponiamo che un'azienda non possa finanziare un singolo partito con una somma inferiore a quella che, ad esempio, può dare un cittadino. Ad esempio, noi diciamo, mi spiegate perché le fondazioni politiche possano ricevere soldi alle società partecipate quando questo è giustamente vietato ai partiti politici? Perché? Io faccio proprio questa domanda, perché? Sì, però guardi, la domanda di base è che i cittadini si chiedono perché è stato fatto un referendum nel 93 e questo referendum è stato aggirato, cioè la sensazione... Cioè, sì. Questo c'è stato un referendum, ce n'è stato uno successivo che è andato deserto e quindi uno potrebbe anche dire tecnicamente loro i cittadini dopo qualche anno avevano anche cambiato idea. C'è stato qualche anno dopo un referendum che non ha raggiunto il quorum e come si sa appunto uno potrebbe anche difendersi. I cittadini in quel referendum, nel 93, ci vogliamo scordare da che cosa venivamo, l'onda. Siccome era sull'onda di Tangentopoli, i referendum non valgono. Ma siccome noi di queste cose discutiamo sempre sull'onda, io naturalmente parlo per una forza piccola, nata da poco, che senza che... anche grazie a una parte di finanziamento pubblico è riuscita a fare una piccola campagna elettorale. Se non ci fosse stata neppure quella, oggi veramente non sarebbe neanche rappresentata. Questo è il vero mistero. Vorrei capire, perché senatore Puglia, tornare al Movimento 5 Stelle, vede, Boccadutri dice senza questo piccolo finanziamento non avremmo potuto fare la campagna elettorale. Voi invece siete lì a dire noi con il grande megafono Beppe Grillo, perché questa è diciamo come dire una ricchezza che non so quanto durerà come megafono e come dire presa sull'Italia, senza però finanziamenti pubblici. Invece abbiamo preso quanti milioni di voti, adesso non me lo ricordo, insomma parecchi milioni di voti. È questa la soluzione che voi dite, cioè arrangiatevi cari partiti, trovate delle forme per essere popolari e prendere i voti, ma non chiedete soldi. Sì, in pratica la ricetta è la politica dei cittadini, per cui è lo stesso cittadino che in maniera spontanea deve donare a questo o quella forza politica quello che vuole. È ovvio che, come già prima un po' si è parlato di questo che sto per parlare, ossia ci vuole un tetto. È ovvio che ci vuole poi un tetto, se no altrimenti veramente diventa come è già attualmente il partito delle grosse lobby. Ad esempio, un'idea così a braccio la dico, ovviamente sì. Se la dico a braccio, quindi vuol dire che nel momento in cui ci sediamo e lavoriamo su questo che sto per dire, si migliora anche. Sì. Si possono fare tranquillamente, ok? Donazioni liberali, però. Ecco, la persona fisica dovrebbe donare al massimo 350 euro al nucleo familiare con un tetto del 2% rispetto all'imponibile fiscale del nucleo. Cioè non potrebbe donare di più, dice. Esatto, persone giuridiche max 3.000 euro e si contano anche le società controllate e collegate o facenti capo anche a persone interposte. Ma questo, scusi, perché? Per evitare che i partiti siano, come dire, condizionabili da grandi donazioni, da grandi... Esattissimo, ma noi in verità, seppur non scritto, ecco, abbiamo una regola di buon senso, non accettiamo mai donazioni superiori a 350 euro, anche se magari molto difficili da avere, però è fondamentale. Un'altra cosa che bisognerebbe fare... a vietare la possibilità della donazione da parte delle società partecipate e delle fondazioni. Insomma, per cercare di mantenere i partiti e comunque i movimenti politici come dei presidi di autonomia e libertà. Facciamo così, 3 minuti di pubblicità, poi ripartiamo col senatore Sergio Puglia, che è tesoriere del Movimento 5 Stelle al Senato, l'onorevole Sergio Boccadutri, invece il tesoriere di Sinistra Ecologia e Libertà. Ci sono anche, se volete, le vostre telefonate 800 24 00 24, tra l'altro poi alle 8.45 avremo anche, per parlare di costi della politica, uno dei rappresentanti sindacali dei dipendenti della Camera, quelli che hanno fatto molto arrabbiare per degli stipendi da Bengodi e da quasi, insomma, sacca del paese, dove sembra che i privilegi non possano essere toccati. 24 mattino. Eccoci qui alle 8.35 minuti. Allora parliamo di finanziamento pubblico ai partiti, che Letta dice va modificato, altrimenti agiamo per decreto legge. Il Movimento 5 Stelle lo vuole abolire, rinuncerà a questa tranche che arriverà ai partiti il 31 luglio, gli altri partiti invece ci lo vogliono mantenere in forma magari diversa, insomma, da discutere, modificare, ma una qualche forma di finanziamento alla politica ci vuole. Siamo con il senatore Sergio Puglia del Movimento 5 Stelle, con Sergio Boccadutri, onorevole tesoriere di SEL. Vorrei sentire gli ascoltatori. Andrea da Treviso ci ha chiamato all'800 24 00 24, ha detto, mi scusi Andrea, prima che ci scrive tale Nicola, dice: sono del PD ma qui hanno ragione loro. Non so se parla come Renzi, che parla di noi e loro come PD, no, ma credo che si riferisca al fatto loro del Movimento 5 Stelle. Andrea, buongiorno. Sì, ecco, buongiorno. Dica, che ne pensi? Grazie a voi. Volevo dire al senatore Puglia che è inutile che poi si lamentano che la gente non va più a votare. Abbiamo cominciato a non andare più a votare perché quando troviamo come risposta che noi sul territorio non possiamo muoverci perché non abbiamo più i contributi nazionali, politici, prendiamo solo 2.500 euro al mese, è inutile, venite voi a Roma. Cioè, queste sono le risposte che troviamo dalla politica, così. Guardi, ma scusi, lei scusi Andrea, il senatore Puglia, forse, il senatore Puglia del Movimento 5 Stelle, cioè lei ce l'ha con il senatore del Movimento 5 Stelle? Sì, perché questa nuova politica ci sta facendo arrabbiare, non hanno più i soldi per fare politica sul territorio. Sappiamo che politica vuol dire sacrificio, ma sul territorio, e contrastare i problemi che nascono in questo momento, soprattutto in crisi. Noi come comunità di Parmata, per esempio, siamo arrabbiati perché vediamo queste cose, soprattutto sulle banche, si parla, però si stanno a Roma seduti a chiacchierarsi, a menarsene, per cui siamo legati, le prossime elezioni saremo ancora più duri. Ancora meno persone a votare. Vabbè, sì, ho capito a metà, adesso anche il collegamento cellulare è un po' che va e viene. Comunque la ringrazio Andrea, vorrei andare a Roma da Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io dicevo una cosa semplicissima, cioè stavo detto che senza il finanziamento pubblico ai partiti c'è il rischio che la democrazia ci rimette, che arriva un ricco, fa la scalata e governa. Scusate, ma allo stato attuale che succede? Berlusconi chi è che ha governato fino adesso? Non è un ricco. Quindi lei dice non è che questo finanziamento attuale abbia impedito, ma così dicono è proprio di più, succederà ancora di più. La democrazia è a rischio per questo, perché chi ha i soldi li mette, chi non ha i soldi non li mette. Questo è il punto. Però lei dice attualmente già è così, Alessandro. È già così. Quindi lei sarebbe per? Per abolirlo, come è stato votato nel referendum. Totalmente. Grazie. Onorevole Boccadutri, grazie. Effettivamente. Alessandro dice, vabbè, ma c'è già Berlusconi, che abbiamo impedito forse che una persona molto ricca possa mettere i suoi capitali in politica? No, vabbè, primo punto, non ci sono quei limiti che noi proponiamo ancora ad oggi. Secondo, il fatto che quello abbia voluto governare ancora di più. Se non ci fosse stato il finanziamento pubblico, forse non avremmo avuto delle voci che in Parlamento, che avesse voluto fare un po' di opposizione al governo Berlusconi. Di questo stiamo parlando. Stiamo parlando della possibilità comunque di esercitare anche questo. Poi il fatto di Berlusconi non è il finanziamento pubblico, è lo strapotere rispetto al conflitto di interessi e alle tre televisioni che ha. Non ci prendiamo in giro. Quindi il conflitto di interessi. Adesso non ci prendiamo in giro, che il tema non è i soldi che ci ha messo lui. Il tema è il controllo dell'informazione che ha avuto anche di tre televisioni giornaliste. Adesso, se vogliamo rimuovere questo, rimuoviamo. Ah, certo, lei dice il vero problema dal suo punto di vista per Berlusconi è il controllo che ha come mediatico, non tanto il patrimonio però economico. Posso fare una sì. domanda proprio velocissima sì. al senatore Puglia? Sì, uno certo. è perché anche i 5 Stelle, anche insomma, i suoi colleghi deputati hanno proposto una forma di tetto alle contribuzioni private. Però tutte le proposte che fanno si prevede un tetto maggiore per le imprese rispetto alle persone fisiche. Io mi domando proprio a loro, perché? Perché un cittadino finanzi la politica, lo capisco, c'è scritto nella Costituzione, ma che un'impresa debba finanziare un partito, qual è l'interesse dell'impresa? È il profitto e basta, non ce ne sono altri. Ho capito, ma scusi, le imprese, vabbè, risponde il senatore Puglia, perché sono le imprese non sono mica, cioè perseguono per l'idea delle lobby, di fare delle lobby. No, è un'altra cosa, vabbè, perché comunque le imprese fanno il profitto, non fanno politica. Fanno il profitto e danno posti di lavoro, fanno crescere un paese. Non è che ho detto che fanno schifo, ho detto un'altra cosa, cioè. No, no, fanno anche crescere un paese, quindi se si rafforzano... C'è un'altra... Ma è quella la legge sulle lobby, io sto dicendo, ma perché dovrebbero finanziare i partiti? Un'impresa deve finanziare un partito? Cioè, la finanzia un cittadino è l'idea, l'afflato ideale, l'organizzazione. Sì. Se un'impresa finanzia un partito, dato che l'obiettivo... Lei dice vuole qualcosa in cambio, lo dica fino in fondo. Ma è ovvio che vuole qualcosa in cambio. Ma è sempre stato così, allora, senatore Puglia, risponda a questo e anche se vuole l'ascoltatore di prima, da Treviso, che dice parlate, ma state a Roma e cosa risolvete. Prima però risponda anche a Boccadutri. No, certo. Allora, vado per gradi. Anzitutto per quanto riguarda l'ascoltatore Andrea, non ho ben capito l'impostazione del ragionamento. Sì, però, era un po' confuso effettivamente, non l'ho capito neanche io. Per quello che ho potuto capire, ecco, cerco di rispondere. Noi torniamo nei territori, perché ovviamente nel tra virgolette stipendio che prendiamo come parlamentare e sono anche previsti dei soldi che ci consentono tranquillamente, ovviamente da parte nostra rendicontati, tranquillamente di andare sui territori, ascoltare, riascoltare le persone, come abbiamo fatto in Campania. In Campania abbiamo fatto adesso nel 2013 lo Spazzatour 2013, sì, dove siamo andati 70 parlamentari mai visto nella storia della Repubblica Italiana nei territori tartassati dal... Vabbè, insomma, lei dice giustamente, noi rispondiamo alla cittadinanza, però effettivamente l'obiezione di Boccadutri è interessante, cioè perché mettete un tetto più alto alle imprese e perché mettete una donazione per le imprese? Bisogna però cominciare ad abbassare i muri ideologici, cioè non si può parlare ogni volta di impresa, vuole il profitto, aiuto le imprese, cioè calma. Ma lo spero che voglia il profitto, quindi perché fa l'imprenditore uno, non ho capito. Calma, ma mica è un fatto ideologico, mi scusi senatore Puglia, un po', non è un fatto ideologico. Un po' ideologica l'impostazione Boccadutri l'ha avuta, no, dica Puglia. Dica. Allora, comunque bisogna un po' abbassare questi muri. Per quanto riguarda le imprese, ecco, noi ci troviamo in una società che sta cambiando, parecchie imprese hanno anche al loro interno il cosiddetto bilancio sociale. Le imprese sono una forza del paese, così come sono i cittadini, sono una realtà, esistono tre funzioni che devono far andare avanti uno Stato: la funzione politica, la funzione culturale e la funzione economica. Ecco, queste tre insieme fanno uno Stato democratico. Ecco, per quanto riguarda l'innalzamento di un'impresa rispetto a un privato, semplicemente abbastanza razionale. Molto spesso, si suppone che magari un'impresa abbia più fondi, abbia più possibilità. Sì, l'accusa, dice Boccadutri, che un'impresa vuole sempre un ritorno, se investe nella politica, dando dei soldi, chi lo fa perché vuole un tornaconto. Questa era l'accusa molto molto chiara di Boccadutri, capisce senatore Puglia? I piccoli imprenditori che sono, io direi, vessati per quello che sta succedendo ormai da anni in Italia, quindi no, non sono demoni le imprese. No, questo sì, non l'ha detto neanche Boccadutri, che certo però era partito così con questa idea, le imprese perché danno dei soldi? Attenzione, il profitto. Facciamo così, andiamo un attimo alle informazioni sul traffico, perché poi voglio salutare con noi, apriamo questa parentesi e lo saluto e lo ringrazio già, c'è Marco Caputo che è il segretario dell'associazione consiglieri parlamentari alla Camera. Buongiorno Caputo. Buongiorno, Una delle 11 categorie, questa ha fatto anche un po' storcere il naso a molti, anche a noi qui che settimana scorsa ci siamo occupati, avevamo anche la vicepresidente della Camera che Marina Sereni, che si occupa del come cercare di ridurre o contenere le spese dei dipendenti della Camera. Lei è uno dei rappresentanti sindacali dei dipendenti della Camera e da lei sono tra un attimo dopo il traffico. E allora eccoci qua, Marco Caputo. Intanto i consiglieri parlamentari, devo dire, sono, questo per gli ascoltatori che non lo sanno, sono forse, non me ne vogliono gli altri dipendenti della Camera, ma categoria dei dipendenti della Camera più, come dire, so che molti di voi hanno due lauree, hanno studiato, sono quelli che scrivono anche materialmente le leggi, sono persone importanti, insomma, imprescindibili alla Camera, questo come premessa, Caputo. Detto questo, intanto perché 11 sigle sindacali dei dipendenti della Camera? Questo è un portato un po' storico di un'articolazione della rappresentanza sindacale che alla Camera prevede delle rappresentanze di categoria, perché sì, ci sono dei sindacati che, come quello che rappresento, sono espressione di una categoria intera, infatti il nostro conta l'iscrizione della quasi totalità dei consiglieri parlamentari, e altri che invece sono riconducibili in maniera più tradizionale alle confederazioni sindacali che esistono, sì, anche nel resto del pubblico. Sì, ma sono 11 però, cioè siete quanti? 1500 dipendenti alla Camera? Poco meno di 1500 dipendenti, sì, ma 11, questo sì, diciamo, è un dato che però non ha mai impedito nel corso degli anni lo svolgimento corretto di trattative che poi hanno portato anche a riforme molto significative come quelle che sono state introdotte negli ultimi 5, 6, 7 anni. Senta, insomma, sa che si inizia a parlare di tagli, di riduzione del costo, sì, della gente, la gente pensa che ci sia questo Bengodi, questa enclave che è la Camera dei Deputati, dove ci sono dei privilegi che... Io veramente la ringrazio per questa domanda, perché non è, parlare di Bengodi secondo me è veramente, veramente scorretto. Io le riporto semplicemente quello che è accaduto, come sanno anche gli ospiti in studio, da lei la scorsa settimana, quando c'è stata la seduta. Io lavoro in commissione bilancio per il decreto fare, cosiddetto. Sì, sì. Ecco, io ho qui davanti il mio tabulato orario, perché noi, anche se siamo una figura dirigenziale, abbiamo un conto delle ore che trascorriamo qui, e io ho trascorso qua dentro 90 ore in 5 giorni, quindi capisce che vuol dire che ho dormito circa 2 ore a notte, con me tutti i colleghi consiglieri, e devo dire, perché va detto anche a tutela degli altri dipendenti, con noi c'erano le segreterie, i documentaristi, quindi anche profili professionali diversi che hanno solamente fatto delle minime articolazioni nell'orario di lavoro, ma anche loro hanno dato una prestazione. Ho capito, molto, però questo ho capito, me lo dica sinceramente, perché io non ho la sua busta paga qua, però ho letto sui giornali che gli stipendi sono... Ma guardi, allora, gli stipendi... Quanto guadagna? Sono senz'altro gli stipendi buoni. Io quello che vorrei dire è, non è tanto il problema di quanto si guadagna, il problema è di quello che si fa e di perché lo si fa. Questo sì, però ce lo dica per capire. Quanto può... No, io glielo dico, non ho problemi su questo. Glielo dico, ma quello che vorrei far passare come messaggio è che la nostra è una funzione assolutamente equiparabile a quella della magistratura, come a tutela del libero gioco delle parti politiche. Noi siamo i custodi del regolamento della Camera, siamo quelli che, come diceva lei, contribuiamo in maniera... a scrivere le leggi, ma questo sì. Però vabbè, a parte che poi ci sono, mi scusi, ci sono anche, se vogliamo, i famosi parrucchieri che guadagnano, i barbieri che guadagnano 3.000 euro. Ma non è così, perché se lei va a vedere il sito della Camera, dove vedrà le retribuzioni iniziali, vedrà che la retribuzione è meno della metà di quello che dice lei. Comunque, quanto guadagna un consigliere parlamentare? Un consigliere parlamentare parte da 2.800 euro al mese, per arrivare a delle cifre che sono vicine a quelle del massimo livello della magistratura. Comunque le nostre tabelle sono le uniche che sono state pubblicate, diciamo, ovunque, sostanzialmente in tutti i giornali. Quindi arriva circa sui 15.000 euro al mese? Non arriva a questi soldi. 13.000? Sono cifre assolutamente teoriche, perché presupporrebbero una permanenza in servizio, diciamo, di oltre 40 anni, che poi di fatto difficilmente accade, perché non tutti entrano giovanissimi alla Camera. Comunque l'età del pensionamento tra i 66 e 67, ora diventerà 67 anni, ma quindi deve entrare veramente giovanissimo. Però mi scusi, guardi che anche Marina Sereni, cioè vicepresidente, ha detto che effettivamente ci sono delle cose che effettivamente nel mondo reale non ci sono, come il cumulo senza limite delle ferie, gli scatti automatici ogni anno. Questa è un'altra cosa, ecco, la questione delle ferie è un altro falso mito, diciamo, perché come sai, i magistrati hanno 45 giorni di ferie, noi ne abbiamo meno, e io ne ho 37, ma non ho questo è il problema. Il problema è che ovviamente se lei trascorre, come capita a tutti noi, diverse centinaia di ore in più al lavoro, quindi vuol dire che la settimana lavorativa non è 40 ore, chiaramente avrà diritto a un minimo di riposo, di riposo che è dato dalle ferie, quindi c'è una specificità per cui qualche giorno di ferie in più rispetto al pubblico impiego, che noi, per noi non è un paragone, perché noi facciamo una funzione completamente diversa da quella del pubblico impiego, chiaramente si può... Però mi scusi Caputo, c'è anche questa cosa. C'è un profilo di incertezza totale nel quando si possono prendere le ferie, perché noi siamo a totale disposizione degli organi parlamentari, quindi con tutta l'imprevedibilità che è propria del nostro Parlamento. Insomma, guardi, sti giornalisti, cioè viene definita come un Bengodi italiano, invece lei ci sta a dire che siete anche un po' vessate, tartassate dal tanto lavoro. No, però le chiedo questo. questo. Cioè, l'altra cosa che è venuta fuori, ce l'ha confermato Marina Sereni, segretario generale della Camera, Ugo Zampetti guadagna 600.000 euro l'anno perché è entrato, e quando è entrato... Non ho questa informazione precisa, in ogni caso, e credo che sia di meno, in ogni caso è assolutamente in linea con tutto il comparto degli organi costituzionali, se poi va a vedere anche la Banca d'Italia, che è un'esperienza di cui nessuno si lamenta mai, ma gli stipendi del solo direttorio, tra l'altro, sono in linea con quelle cose lì, insomma, però. Sono in linea su quelle cose lì, che però non destano scandalo nel Paese. Io quello che vorrei dire, Milan, io la ringrazio di questo invito veramente, perché mi consente di dire questo, è che il punto è che noi dobbiamo sfatare il mito di questo attacco al Parlamento. Noi svolgiamo una funzione di garanzia indipendente che consente alle parti politiche il libero gioco e di essere sottratte alle lobby. Noi dobbiamo essere messi nella condizione di poter dire ai politici anche dei no, e per poter dire ai politici dei no dobbiamo avere delle carriere che siano slegate da una valutazione politica, e quindi delle carriere che, come quelle dei magistrati, hanno una progressione per anzianità. Si contesta solo straordinaria progressione. Comunque ci sarà un accordo, perché Marina Sereni ha detto, a volte mi fanno la battuta, devo entrare con la scorta per trattare con 11 sigle sindacali, era una battuta, non so se l'ha ascoltata. Ci sarà questa d'accordo. Grande rispetto della Presidente Sereni, anzi normalmente la nostra ritosia ad apparire nei media è proprio quella che per fair play istituzionale noi non interagiamo normalmente con la parte politica, quindi voglio rassicurare tutti, noi siamo i primi a chiedere di fare delle riforme strutturali qui alla Camera, perché come ha ricordato anche la Presidente c'è stata una riduzione del personale di oltre 500 unità la riduzione continua per il blocco del turnover, quindi questa cosa impone una riforma. Noi abbiamo chiesto, l'abbiamo scritto anche in una lettera firmata, guarda caso, da tutti gli 11 sindacati, quindi non c'è una forza interdittiva dei sindacati, ma c'è anzi una forza anche propositiva di questi sindacati, abbiamo chiesto di poter fare delle riforme strutturali che producano dei risparmi duraturi e nel tempo alla Camera, in considerazione anche della necessità urgente data dalla riduzione del numero del personale a parità, e anzi mi consenta di dire con l'aumento delle funzioni che ci sono richieste. Quindi in ogni caso staremo a vedere. Io intanto la ringrazio, Marco Caputo, ricordo il segretario dell'Associazione Consiglieri Parlamentari alla Camera. Grazie a lei. Grazie, ho due minuti per concludere. Non so se senatore Puglia, so che voi del Movimento 5 Stelle avete fatto anche un dossier, credo da voi l'ho preso, i 600.000 euro del segretario generale della Camera. Poi l'ho chiesto alla vicepresidente della Camera e mi ha detto, beh, effettivamente sì, perché si entra con 405.000 euro, poi ogni anno c'è uno scatto del 2,5%, facendo i calcoli, e lui è segretario dal 96 e quindi si arriva a quella cifra. È il Bengodi o no i dipendenti di Camera e Senato? Lei sta al Senato. Allora, certamente c'è qualche particolarità, nel senso che hanno una formazione molto elevata, hanno una professionalità molto elevata, però senza dubbio bisognerebbe, a mio avviso, e non soltanto a mio avviso, andare a livellare queste retribuzioni andandole a comparare con quelle delle dirigenze magari pubbliche o private. Sì, tra l'altro io vorrei parlare con un barbiere della Camera, perché avete mai incontrato? Onorevole Boccadutri, lei l'ha mai incontrato un barbiere alla Camera? No, come sì, come no, l'ho incontrato, non ci vado più perché è esistono. Più caro del barbiere sotto casa. Comunque, ma esistono, esistono. Quanto costa andare no, al barbiere? No, ma non lo so quanto costa. No. Quanto costa, guardi, io spendo più di 25 euro. Per andare dal barbiere della Camera. Io cavaglio i capelli cortissimi, me la cavo con molto meno. Sì, No, ma a parte le battute, posso dire una cosa su questo? Guardi, la discussione, i sindacati secondo me hanno capito e stanno cambiando l'atteggiamento, cioè un atteggiamento difensivo. Adesso io sentivo Caputo diceva una cosa importante: ristrutturiamo l'amministrazione della Camera, il modo in cui funzioniamo, questo deve farlo anche la parte politica, perché i servizi ai deputati per lo svolgimento della loro attività legislativa siano sostanzialmente sì. migliorati, perché noi stiamo la Camera lavora come negli anni 80 e sì, nel 2013 sì. non è possibile. Questo non è possibile. No, questo però si fermi qui, però queste, se no devo sforare e poi mi tagliano. Però se trovate un barbiere della Camera o del Senato, ditegli di venire a intervenire. Io lo vorrei intervistare, vi prego, vi faccio questo appello, senatore Puglia, onorevole Boccadutri, nel ringraziarvi, do l'appuntamento a domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.